amaritudine non vorrete menti, fatto ste materia, zini elementi, simili scopolio, decolo d'inventi, consideri proprio, fioro sapienti, sopra petra ponere, sede fondamenti, stolto seguo comparo, fluvio lamenti, subione travite, dunque permanenti.